Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stockmore Rock. Sono ritornato in diretta dopo le due puntate di playlist che avevo messo in queste appunto due domeniche scorse. Sono tornato in diretta per un motivo, anche perché è bello tornare in diretta per parlare direttamente con i miei acciacchini vocali che spesso ho, i miei incarti che ogni tanto mi vado a creare, alle volte inutilmente. Però perché sono tornato in diretta? Anche perché ho anche delle interviste da portare avanti, dato che ce ne sono veramente tante che mi sto già programmando per i prossimi mesi, ma questa fortunatamente sono riuscito a tirarmela fuori in 448, avendo incontrato di persone, conoscendo di persona da diversi anni il membro quasi fondatore della band. Ma ne andremo a parlare effettivamente con lui, perché sono usciti dopo 4 anni e con un'angolazione astrale perfetta, perché hanno rimesso lo stesso giorno. Dopo andremo a parlare un attimo anche con lui. E qui Giampi degli Spaventapassere, che sono usciti con il 4º album. Ciao Giampi, come va? Come stai? Ciao a tutti, bene bene dai. Domenica oggi ancora si sta bene. Esatto. Domani sarà peggio. Bravissimo. Poi dopodomani ne riparliamo. Però intanto ci godiamo esatto. Questi ultimi momenti di domenica di relax. Poi dopo, già quando si va a letto, dici: che palle domani a lavorare. Però ci tocca. Allora, discorso astrale che dicevo, in modo ironico ovviamente, che 4 anni fa siete usciti con il 3º album e lo stesso giorno siete usciti con lo stesso album. Esatto, quest'anno abbiamo deciso così casualmente, lo facciamo uscire il 18 di febbraio, abbiamo deciso facciamo mercoledì 18 febbraio, 4 anni fa stessa cosa, abbiamo fatto uscire l'altro, il vecchio album, sempre il 18 di febbraio, quindi casualmente non era una cosa voluta, però è successo. Però esatto, è andata. Poi sono quelle cose che sono molto simpatiche da poter riferire, magari per chi segue la band e chi ascolta quelle piccole curiosità. Prima di andare a parlare di Enoclitech, che mi sono incantato più di una volta nel pedirlo, però quindi prima o poi riuscirò a dirlo in modo corretto subito. Una domanda introduttiva che magari hai visto in qualche diretta che magari hai seguito. La domanda introduttiva è, a cui non scappa nessuno, bene o male, come saprai nel 2024, a fine 2024, sono sciolti in NoFX. Quindi la mia domanda introduttiva, con risposta breve, si riesce, anche perché so che ce ne sarebbe tantissimo da parlare, cosa significano per te NoFX? NoFX è gioventù, perché li ho conosciuti tramite amici quando ero alle scuole, quindi scuole medie, scuole superiori, perché non ascoltavo punk, come non lo ascolto quasi anche adesso, però sono stati un'apertura verso un mondo nuovo che poi, tra le altre cose, ha portato agli Spaventapassere. Ok, quindi ispirazione come tanti. Esatto. Ispirazione, va bene. E riprendiamo la diretta, sempre collegato qua con Giampi degli Spaventapassere, che andiamo a parlare effettivamente del loro 4º album Enoclitech. Ce l'ho fatta. 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp, o se qualcuno sta seguendo la diretta come qualcuno sta già facendo, può mandare dei messaggi lì. E da lì è arrivata appunto una domanda, una curiosità: ma perché dal vivo suonate Pezzi Bui degli Screeners? Perché tutti e quattro nella band amiamo gli Screeners. Non solo Pezzi Bui, facevamo anche Grazie di Tutto, ogni tanto la facciamo, la ritiriamo fuori, e ogni tanto guardiamo cazzeggiando in sala prove anche altri pezzi, però l'hardcore stile Screeners ci piace a tutti e quattro, quindi. Dai. Molto bene. È un po' fuori dal nostro genere che facciamo con gli Spaventapassere, però ci piace. Vabbè, ci sta. L'omaggio, dato che ormai è purtroppo una band che non c'è più a livello musicale da diversi anni, nonostante i membri siano sparsi per varie altre band, però effettivamente la band Screeners non esiste più. Ha lasciato il segno. Esatto, per molti, anche perché quando, come dicevamo prima, quando abbiamo, vi ho visto una delle, perché non mi ricordo mai quante volte, una delle volte vi ho visto al Sick Bus e a Rimini qualche anno fa, avevate fatto effettivamente Spezzi Bui e casualmente con Mattia sul palco, perché esatto, c'era Mattia casualmente lì, l'abbiamo trascinato sul palco. Ma figata ancora di più. Esatto, ancora meglio, infatti ci cavo, infatti lì per lì avevo pensato, dopo magari se la sono studiata per Fede, dici va, c'è Mattia. No, invece... era totalmente a caso. Molto bene, ma andiamo a parlare effettivamente del nuovo album, di questo sempre ironia che buttate sempre in tutti i vari pezzi senza prendervi troppo sul serio su quello che succede, e come dicevamo un attimo del fuori onda, ci sono tanti riferimenti old school anni 90 e tanti riferimenti di storie reali, giusto? Sì, esatto. Noi, come, a parte partendo già dal nome dell'album, no, che è totalmente no sense, sono parole inventate che ogni tanto saltano fuori anche dei nostri pezzi, però sì, abbiamo tanti collegamenti a fatti di vita reale e comunque personaggi che vediamo comparire giornalmente nella nostra vita, o comunque riferimenti anni 90 o di cose che ci piacciono, come wrestling, Formula 1, però quell'anni 90, non quella di adesso, e quindi ci rifacciamo sempre a quelle cose lì, via. No. Rifacendole e trasportandole nella nostra mentalità. Ma quindi adesso mi viene un collegamento automatico, come è saltato fuori appunto sto discorso di tirare fuori pezzi old school anni 90 e buttarci dentro un po' come intro magari le canzoni? Ma perché quello lì un pochino ascoltando più che altro, perché ci rifacciamo sempre un pochino al punk anni 90, noi ci ispiriamo come Spaventa Passa a quello lì, a tutto quel genere lì e a quella ondata lì, soprattutto il punk italiano, e quindi cantando anche sempre noi in italiano principalmente, perché ogni tanto qualche cover, qualcosa in inglese ci piace metterla. Però i nostri riferimenti sono quelli. Quindi all'inizio, quando abbiamo iniziato a suonare in tre, avevamo quasi 2 ore di cover di punk italiano. Boia. In sala prove facevamo quello. Essendo nati come progetto alternativo per finire la serata dopo aver fatto le prove con gli altri gruppi che avevamo, era giusto il divertimento. Quindi, rifare tutte queste cover male, come suoniamo tra l'altro adesso, però dettaglio era puro divertimento. Va bene, per chi se non lo fosse ancora ascoltato, anche perché è uscito mercoledì, quindi dopo, anzi te lo chiedo subito, anzi me la tengo per dopo, perché non, come dicevo, che perché non si fosse ancora ascoltato Enoclitech, il quarto album di Spaventa Passa, ce lo andiamo a ascoltare un pochettino qua, ma è già disponibile sulle varie piattaforme di musica che ci sono disponibili adesso. Qualcosa da dire prima di Romualdo, che ce l'andiamo ad ascoltare? Romualdo è uno dei fatti di vita vissuta, ripreso da nome inventato da noi da dare al personaggio di un video che è uscito, è andato virale un paio di anni fa su YouTube e Instagram, un po' tutte queste piattaforme, di questo signore che defecca per strada in mezzo alla strada. Quindi abbiamo fatto il riferimento a questa qui e ci è saltata fuori questa. E riprendo la diretta dopo quasi metà puntata della prima parte di Stormon Rock. Dato che si parlava anche un po' di cover anche nel fuori onda, e ne avete fatte qualcuna in italiano comunque, adesso mi ricordo Se una regola c'è di Neck e Sta partendo di Ambrangiolini, tra l'altro fatte veramente veramente bene, c'è qualcos'altro in cantiere a livello italiano? Al momento di cover no. Ok. No, al momento no, vabbè, abbiamo le varie che facciamo ogni tanto live, ma che non abbiamo registrato, quindi adesso ultimamente ne facciamo poche, però a parte quelle 2-3 da te già citate, un pappino come te. Beh, sono contagioso, non so. No, no, però per ora, al momento no, ogni tanto sì, pensiamo a qualche cover nuova da rifare, però ci siamo divertiti con quelle, anche se è una regola cieca, l'abbiamo registrata, quello ci siamo divertiti veramente a farla. Ah no, è bella, anche perché quella, se non ho visto male, si trova su Bandcamp, perché su Spotify non c'è, o sì. C'è anche su Spotify? No, mi sembra che sia anche su Spotify, non mi ricordo. Ok. Forse non negli album, ma in un'altra. Sì, in un'altra, perché dovrebbe essere una compilation che avevamo fatto. Ok. Infatti l'ho visto di recente andando a cercare, a contare quanti album avevate fatto, perché non mi ricordavo se questo era il terzo o il quarto, e mi sono imbattuto nel singolone con altri brani di Se non regola c'è. No, forse Se non regola c'è no, che l'avevamo fatto solo su Bandcamp, c'è l'altra cover che avevamo registrato, Daisy di Daniele Groff, che c'è su Spotify, che c'è nello split che avevamo fatto con i Bon Pro. Ok, infatti lì c'è Daisy, che quella lì è uno dei pezzi che ci richiedono spesso e non fa quasi mai. Non fate più, infatti il mio omonimo mi dice: mi ricordo di Daisy di Daniele Groff. Io sinceramente, esatto, poco, però magari me l'andrò a riascoltare. Quella dovremmo rifarla bene, da rifarla alle prove, a provarla alle prove per farla live. Vabbè, il concetto più o meno bene o male era quello. Esatto, dai. Era quello lì. Un'altra curiosità, ho visto che nella copertina siete sostanzialmente voi quattro. Esatto. Come è saltata fuori questa copertina, che spaccate la tecnologia sostanzialmente? Beh, è un po' riprendendo l'Enoclite, che non ha un senso reale, però è un po' quello che noi siamo tutti e quattro un po' poco tecnologici. Ok. Almeno. Soprattutto io, dal mio punto di vista, odio un po' tutta la tecnologia, anche se ci lavoro, perché tra computer e una cosa o un'altra ci siamo sempre tutti dentro. Però è un pochino rifacendoci sempre un po' agli anni 90, di quello che sono anche il nostro genere che facciamo, perché alla fine è il punk rock italiano e noi ci rifacciamo a quella frangia lì, quindi è un po' tutto mischiato su quello. Ok, adesso ti lancio l'ultima domanda che è stata fuori, e poi dopo vado a lanciare un altro brano prima della fine della prima parte di The Storm Rock, e ti chiedo, che sempre il mio omonimo ripropone, perché la canzone su Frenzen? Canzone su Frenzen perché siamo innamorati di questo eterno secondo. Già anni fa avevamo fatto una copertina del nostro tour estivo, sempre con Frenzen, e siamo innamorati proprio. Ogni tanto è sempre saltato fuori, e facendo quest'album qui ci è venuto da fare questa canzone. Ah, ma poi anche riferimenti anni 90, anche sempre a Formula 1, ogni tanto qualcosa esce, e anche in La Burdella de Bosque, se non erro, sì, c'è il riferimento ad Alan Prost. Quindi no, Formula 1, quella vecchia 80-90, primi 2000, siamo un po' appassionati. Un po' di nostalgia ce la buttiamo in mezzo, sì, anche perché esatto. ci può stare a chiudere il cerchio. Esatto, quella ci sta sempre. Quasi a fine della prima parte di The Storm Rock. Mister X. Esatto. È sempre collegato con Zampi per parlare del nuovo album, ma piccola pausa per quanto riguarda effettivamente l'album, che ovviamente ce l'andiamo a ascoltare con altri due brani che mi sono fatto dire da Zampi per poterli passare, ve li sono fatti passare, e qualche data già confermata o qualcosa che è in cantiere che potete già dire per gli Spaventapassere. Sì, questo venerdì prossimo, il 27 di febbraio, abbiamo il release party al Resina Drink Club a Ronzano, che per chi non lo conoscesse e conosce meglio è dove c'è il Voodoo Sound Lab, che è la sala prove dove quasi tutti noi zona Rimini Cesena ci appoggiamo, e poi il 13 marzo, sempre un venerdì, al Bombonera al Cesena. Semplice, ok, intanto queste, in queste due poi ovviamente per l'estate magari salterà fuori qualcos'altro oppure nei prossimi mesi. Sì, dopo prossimamente vedremo. E già alla data del 27 release party avremo anche le copie fisiche del CD. Ah, ok, ok, buono, buono a sapersi, in sicuramente insieme a tutte le altre varie versioni fisiche degli altri album precedenti. Esatto, esatto, esatto. Bene, bene, buono a sapersi, buono a sapersi. E io, a conclusione della prima parte del Storm Rock, vado a mandarti l'ultimo brano, uno dei brani che mi hai mandato. È un po' strano quando ho letto il titolo, perché leggendolo Mare mi fai cagare. Adesso questo ovviamente il francesismo è un po' particolare, però tu, essendo dalla parte del mare, fa un po' strano, no? Decisamente tanti sono affezionati alla parte romagnola e alla parte del mare proprio. Penso sia una cosa, un discorso ironico adesso. Sì e no. No, è perché comunque sia il mare, noi ce l'abbiamo qui, è qui a 5 minuti di macchina, e è bello, però quando noi non riusciamo mai a godercelo come vorremmo noi, a parte d'inverno praticamente. D'inverno, sì, d'estate è sempre un po' caotico se la guardi in quell'ottica lì. Chi viene in vacanza la vede più proprio con la vacanza, noi ce l'abbiamo tutto l'anno, e però in realtà è anche perché ci piace il giusto, via. Ok, no vabbè, infatti immaginavo, ho detto probabilmente per quello, però meglio chiedere ovviamente al diretto interessato per quanto riguarda... Sì, perché ovviamente... Sì, ma è per... Vai. Perché la realtà del come possiamo viverci il mare noi d'estate è un mischione di cose non reali, ecco. Esatto, ce n'è di tutte. Esatto, per stare un po' sul vago e dare una sorta di punto fermo, dici bello, però ci sono tutti diversi discorsi dietro. Come la maggior parte, come tutti i nostri pezzi, è pure ironia. Certo. Seconda parte di Storm Rock, sempre collegato con Giampi, gli Spaventapasseri, appunto a parlare del loro nuovo quarto album. Ricordiamo insieme le due date che avete già confermate. Venerdì 27 febbraio al Resina Dream Club a Longiano e il 13 marzo al Bombonera di Cesena. Ok, buono a sapersi. Quindi adesso buttando un attimo, adesso l'album è uscito da poco, quindi però te lo chiedo lo stesso, perché spesso vado a cadere in questa domanda. Qual è il brano che preferisci di questo nuovo disco? Allora, in questo disco qui un po' tutti. Sai che io... scusa se ti interrompo subito, un po' tutti è strano, sai, perché solitamente dice ma sì dai, c'è quella che preferisco, massimo ne saltano fuori tipo due o tre, quelle belle che uno piace, invece un po' tutti è un po' tutti in questo disco qui farei fatica a dirti proprio uno preciso che mi piace di più. Se devo dire da suonare, Piedi nel Paciugo. Piedi nel Paciugo e Mare mi fai cagare, che è quella che hai fatto ascoltare poco fa. Però del resto tutti, ma proprio io mi diverto personalmente a suonarli tutti, quelli dell'album nuovo. Dai, buono. E quindi più o meno è anche la prima vera traccia, perché la traccia 1 è l'intro del disco. Condef, che è una delle ultime che abbiamo messo giù facendo i brani nuovi, anche quella lì è proprio da cantare, sono belle spinte e sono divertenti. No dai, buono a sapersi, quindi avete tirato fuori, comunque personalmente tirato fuori qualcosa che effettivamente ti piace e immagino che piaccia a tutti bene o male. Quindi esatto. Dicevi vabbè, dicevamo sul discorso di italiano, storie di vita vissute tutte molto ironiche, ma c'è qualche storia che qualcuno ha portato e detto ragazzi dobbiamo assolutamente fare un pezzo su questa, piuttosto che magari aneddoti che tu non sapevi o magari Jack non sapeva? No, quella che è saltata fuori per prima, che è stato un po' l'inizio del disco nuovo, è Romualdo, che poi è il primo singolo che abbiamo fatto uscire, e quella lì è appunto arrivato Jack con ho fatto questo pezzo qui. Ah, okay. Secco proprio, ok. Sì, sì, questo è, lui è arrivato proprio con il pezzo, è già pronto, è solo da cantare. E quindi quella lì era una delle tante storie che è saltato fuori così, ma come anche ad esempio Mio zio in antilope. Antilope è un pezzo che doveva uscire nel vecchio disco, ma quando siamo arrivati lì non ci piaceva e quindi l'abbiamo scartato, e è stato in cantiere per 6 anni più o meno, perché è un vecchio vecchio pezzo che abbiamo ripreso, e tra l'altro è uno degli ultimi invece che abbiamo messo giù per questo disco qui, che abbiamo detto ma c'era quella lì che non la facciamo più, l'abbiamo riprovata. Abbiamo cambiato qualcosina nel testo, qualcosina nel generale, nello strumentale, e mi hanno detto figata, andiamo avanti, la facciamo. Dai, bello, effettivamente ogni tanto ovviamente vado a chiedere se c'è qualcosa che è rimasto fuori da questo disco, perché dici non ci piace, in scrittura finale dicevo ci mancava qualcosa, ed effettivamente c'è qualcosa di questo album che è rimasto dal cantiere precedente, quindi a sto punto di conseguenza ti vado a chiedere, c'è qualcosa che è rimasto fuori da questo disco che magari sentiremo più avanti? No, per ora no. Per ora no, magari ci sono riff e cose provate, però non hanno una vera struttura, non era definita. Vabbè, alla prossima, finché non salta fuori la prossima storia su cui raccontarcela, dopo risalterà fuori tutto. Esatto, ne abbiamo una lista, perché io ho un foglio a 4, perché ogni tanto salta fuori qualcuno, anche amici, cose che dici, fai una canzone su questa cosa qui, oppure siamo al bar o a cena, e potresti farci un pezzo su questa cosa, cioè, quindi ogni tanto salta fuori. Quindi giusto per capire, cioè, per assurdo avete più testi già pronti, più che le canzoni da fare, sostanzialmente. Volendo sì. Avremo una lista infinita. Io veramente ho un foglio, ma in realtà è una lista sul computer, dove ci ho segnati possibili titoli dove gli puoi fare una storia dietro. No, fantastico. Assolutamente la parte più difficile a volte è effettivamente il testo, perché dici oddio cosa vado a raccontare, basandosi su queste storie molto molto ironiche. Facilissimo, bella, ottima tattica effettivamente, in realtà, sai. No, beh, quello lì è un pochino come facciamo noi i vari brani noi. Magari capita che viene fatta tutta la struttura della parte strumentale, c'è un ritornello, c'è una strofa, e poi si studia cosa fare l'altro. Che argomento parliamo? Diciamo di queste cose qui, e allora buttiamo giù. Dai, fantastico. Va bene, buono sapersi questo piccolo retroscena, questa piccola curiosità a riguardo di Spaventapassere. Quasi a conclusione della seconda parte di Let's Talk More Rock, ed effettivamente la puntata, sono sempre qui collegato con Giampi degli Spaventapasti, dove stavamo appunto parlando di tutti i vari canzoni live, non mi veniva il termine. Esatto. Tra l'altro Manu dice nuova bio di Instagram, quindi quella di Cicola potresti usare come bio di non sarebbe male. Adesso guarda, se vuoi ti faccio lo screenshot, oppure esatto, fammi lo screenshot che me lo mandi. Esatto, dopo te lo, prima di chiudere tutto ti faccio lo screenshot e ti mando la nuova bio, a quanto pare, per quanto riguarda i social. Domanda più che classica, e anche perché non lo sapevo è una curiosità che mi salta fuori sempre a me: come mai Spaventapassere come nome? Bella domanda. Pensavo te l'avessero chiesto. Sì, me l'hanno già chiesto, non mi ricordo cosa ho risposto altre volte, ma ti direi come il titolo dell'album, no? No Sense. Ah, ok, quindi anche quello. No, okay. non ho realmente un ricordo di quando abbiamo deciso di chiamarci Spaventapassere, del perché ci siamo chiamati Spaventapassere, però forse è azzeccato per quello che siamo noi. Eravamo noi tre, perché quando è nato Spaventapassere eravamo in tre. Non lo so, ti so veramente rispondere. No, ma ci sta, perché se mi dici, dicendo ovviamente un discorso molto ironico e che appunto con la vostra musica, con quello che andate poi a parlare, rispecchia effettivamente quello che è tutto, esatto. Direi che, cioè, No Sense come parola, come titolo, come nome per una band, ma effettivamente ha senso con tutto il resto, quindi a cascata con tutto quello che andate a parlare molto ironicamente, quindi... Esatto, sì, che ricade sempre sull'ironia di quello che stiamo come band alla fine. Parlando prima nel fuori onda, che un attimo ho tornato leggermente interrotto, vi hanno detto che siete stati un po' meno volgari rispetto a altre volte, no? Commenti da chi, esatto, ha ascoltato il disco. Vai pure. Esatto, me ne sono accorto anch'io, perché quando mi sono, tra virgolette, vergognato, mentre caricavo sul distributore dei brani, ho messo solo tre espliciti reali. Gli altri anni, cioè negli altri album solitamente erano quasi tutte, e quindi ho detto va bene. È una cosa che mi è, tra i vari commenti che mi sono arrivati per messaggio, o comunque con i ragazzi che ho beccato in giro in questi giorni, comunque avete detto poco questo, poco quello. Però sì, si capisce comunque il senso è sempre quello, non lo diciamo diretto, però esatto, non è voluta, però è un po' più velata la questione, state crescendo, per modo di dire, ma non lo so, forse perché non c'è uscito di scriverlo, di metterlo giù, però il senso è sempre quello. E dici, esatto, alla fine, per chi conosce gli Spaventapassere saprà benissimo di cosa stiamo parlando. Se non li conosce, andatevi ad ascoltare anche la roba precedente, che da capite sicuramente di cosa stavamo parlando. Non vado a ripetere, perché effettivamente è un po' troppo esplicita come esatto, come parole, come senso, però va bene lo stesso. Quasi conclusione di effettivamente delle Stockmore Rock, sempre collegato con Giampi per l'ultima decina di minuti, dopo ci andremo a ascoltare l'ultimo brano, Mare in Mano. Tra l'altro, se vuoi già dirmi qualcosa per questo brano, che così non stiamo effettivamente alla fine, agli ultimi sgoccioli di corsa, senza farti dire qualcosa. Il brano è scritto da Jack, dal nostro bassista, che abita in collina, è l'unico che abita su in collina qua da noi, e è pieno di allevamenti di animali domestici, nel suo caso ci sono delle pecore, mi sembra, e il Mare in Mano è dedicato ai cani maremmani che fanno da guardiani alle pecore, e è saltata fuori questa cosa, creando questa persona che si traveste da Mare in Mano e rincorre la gente. Oh mio Dio! Che in realtà non è una persona, ma sono realmente i cani. Infatti mi è capitato più di una volta, fermandomi di notte vicino a casa sua, che se scendi dalla macchina senti delle presenze, oppure senti abbaiare. Non è tanto bello rimanere lì. Sì, un po' magari pericoloso, perché metti che questo qua del giro un attimo 5 minuti, dici oddio, chi è questo? Gli salta addosso a prescindere. Esatto. Intanto... Però dai, anche questa qui è pura gugliardia. No, vabbè, chiaro. Infatti ribadisce il concetto Cico, che ci scrive: comunque voi band romagnole spaccate perché siete sempre genuine. Semplice. Bello. È una bella affermazione. Ci sta. Ne siamo onorati, via, dai. È bello così. Senza troppi fronzoli. Volevo un attimo riprendere, quasi a fine della puntata, prima di farti l'ultimissima domanda. Avevi iniziato dicendo: non ascolto tanto punk. Quindi esatto. Spiegami, chiarisci un attimo, magari, per dire, non è che dici io ascolto rap, hip hop, che ci può ovviamente stare. Solitamente chi suona punk rock è perché già ha. Esatto, no, io totalmente fuori, ho sempre ascoltato techno, hardcore, completamente fuori da tema. Poi ho iniziato ad andare a scuola di musica per divertimento, finita le superiori, quando ho iniziato a lavorare. Ho detto proviamo a suonare la chitarra. E Iari, il nostro insegnante di chitarra, che poi è il parte integrante di uno dei nostri pezzi più famosi, i peli del cazzo di Iari, se si può dire. Ma velato, non si è capito. Vai tranquillo. Lui, il nostro insegnante di chitarra, lui suona tutt'altro, fa cose rock anni 70, quindi ero più improntato poi, studiando anche musica, su quella parte lì. E il punk rock è saltato fuori perché già comunque lo conoscevo, e con gli amici poi è saltato fuori da suonare questo, perché mi è sempre piaciuto, ma come ascolto marginale, ecco. Non era proprio stata un'influenza che sin da quando ero ragazzino è entrata. Sempre ascoltato, perché anche amici, cugini, hanno sempre ascoltato un pochino il punk rock, però era una cosa marginale. Poi alla fine invece siamo entrati dentro. Esatto, con tutte le scarpe, come si dice. Come dicevo, sono effettivamente arrivato a fine della puntata, ma c'ho l'ultima domanda. Scarica Barile, come mi è stata detto da Catto, tra dei Corpo Estraneo, quando erano qui in collegamento, quando erano qui in studio qualche tempo fa per parlare appunto del loro album. La mia domanda, Scarica Barile, è: c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Lo so, il silenzio iniziale è di tutti, sappilo. Come ho detto un'altra volta in un'intervista di Cantelli, abbiamo detto, perché eravamo tutti e quattro assieme, siamo molto non democratici, ma avevo detto democristiani. Su questa cosa lasciamo stare. Ok. Vabbè, no, ma ci sta effettivamente. Dici bene o male. È meglio non sapere. Dici, guarda, tu mi hai chiesto questo, io mi limito a quello che mi hai chiesto, non andiamo ad approfondire altro. Esatto. No, vabbè. Rimane tutto così, molto velato. Diamo un alone di mistero su certe cose. Ok. Lasciamo stare altra parola, altra biopapabile. Anche questa, attenzione, però te la devi segnare tu, questa, Giampi, perché anzi, se no ti riguardi il video e vai a vedere verso la fine, tanto lo carico tra appena chiudiamo qua, ti vai a vedere l'altra, okay, l'altra citazione. Quindi Manuel ha dato due citazioni molto vie molto importanti, quindi valuterai tu quale usare. Ma io, come dicevo, sono arrivato effettivamente a conclusione. Prima di andarci a ascoltare l'ultimo brano, come di consueto, ti ringrazio della disponibilità, anche perché ce la siamo cavata fuori in 448. E grazie di essere stato qui con me, e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Grazie mille a tutti che avete ascoltato, se avete ascoltato. Sì, sì, sì, qualcuno avrà ascoltato sicuramente. Non arrivano gli insulti, perché magari qualcuno sta guidando, però chi è, qualcuno sicuramente avrà seguito e ascoltato il nuovo album. Come dicevo, a conclusione di Le Stormon Rock, buon punk rock a tutti.